piccolo ragazzo che cammini stanco e solo, hai occhi di chi spera di tornare alla sua vita. Lei cammina dritta dopo averti lasciato, ti ferisce con gli occhi, ti annebbia la fede. Gioca a far la donna, ma è piccola e indifesa. Nasconde il suo sorriso per paura dell'amore. Lei ti chiede tutto e tutto le dai, al tuo cuore e mano, e mai più lo riavrai. Sei il profumo delle rose che tu hai. Basterà il mondo con gli occhi di un bambino, con il coraggio di chi sogna, di chi spera. Una carezza senza alcun motivo, di un vento amico che ti porti più lontano, a scoprire nuove cose su di te. Basteranno a ricordarti cosa c'è, piccolo ragazzo, corri più veloce contro l'acqua e la neve. Aspetta due minuti, ti potrà riposare. C'è una vita che grida, sono breve e cattiva, ma ne valgo la pena. Sei il sapore delle rose che tu hai. Servirà a ricordare gli anni che giocavi insieme agli amici della strada. Ridevi bene, stupido e felice. Ora che lei ha spezzato le tue ali, rimetti insieme tutti i tuoi colori e guarda. Sogni, amori, sono nascosti dietro.